ce l'hai a casa questa roba. No, ciao coso, c'ha anche un garage pieno di roba. Mi interesserebbe, perché a me mi interessa una freestyler per la macchina. Se recupera lui, dico, non avete il telefono tuo, ci parli e vi mettete d'accordo, qual è il problema? Non costa niente. Perché se decido di metterla in macchina, io c'ho già la base, capito? C'ho la base per la tetta di viso 2. Ho la base calamità. Sì, sì, la giuro io. C'ho quella per la VHF e la Turbo 2001 che ho comprato. Quindi figurati, qui c'è la tua Giovanna. C'ho la base con la VHF, qual è la? X300 mi pare si chiama. Avanti. GD si chiama, non so se la conosci. Fa delle antenne, le fanno loro. Sono uguali identiche alla Turbo 2001, Turbo 2002, 2005, ce l'ha tutte. C'è la Mini Turbo. Brumello che si. Ti stai addormentando? Vero, no, devo fare appunto la mamma, mi sta addormentando. E fagliela. C'è ho visto un sito su Facebook di un radioamatore, c'era un negozio di un radioamatore, sta vendendo un sacco di apparecchi antichi. Quello che ho io, l'altro 572, è stato 520 euro. Dimmelo subito questo sito, vanno bene. Sì, c'è su Facebook, basta guardare. Ci sono gli apparati, ci sono della Kenwood, gli Aesu, di tutto, su Facebook è. Non pare quella fare dove ci sono. Aspetta, adesso non mi viene in mente. Comunque c'è. È una vita di fuori. Capito? Vai, metti come si chiama, carrello, tac, prendi, te lo ordini, roba usata in pratica me. E te lo prendi. Cosa fai? Ti ordini delle cose che non vanno con nessuno, ma vai, già non se ne va più di niente. Sì, non venisci, già c'è gente. Dopo veniva. Dimmi caffè, dai, caffè. Sì, già c'è gente. Non è che non c'è, sì, dipende dai giorni, già lo sai. Ma cosa stai dicendo, buon po'? Ma cosa sei di zeno, con nessuno? Non come una batteria così? Per carità, ma prima, tanti anni fa, era bello il baracchino, non adesso. Ehi, vabbè, tanti anni fa c'erano anche le donne, cazzo, andavano tutti per le donne, che è un'altra discorso che mi stai facendo adesso. Cazzo, c'erano i polpari, c'erano. Cazzo, tutti si compravano il baracchino, che cosa, andava giù sotto casa la magnetica, il lineare, per andare a... Che faceva prima, andava a modulare davanti sotto casa sua, che, prima era così. È logico, adesso c'è Facebook. E quindi con le linee trovi tutte lì, le trovi, chi sposata, chi divorziata, eccetera, eccetera. Ma io queste cose non le ho mai fatte, perciò non è che io non entravo perché c'erano le donne, faceva proprio parlare a baracchino, cioè me la futa a mettere di femmine. Poi lui fa piacere, attenzione, lui non fa piacere. Ma non ci pensavo neanche, guarda. Adelante, Greco. Ora amiche, buonas tardes, aquí la estación primero Falima, que le habla para Antonio y de Cerdeña, que te saluda y te mandaría 7351 para ti, que le familiar. Antonio, remo la vacca. Ah, ma se fa dallo fumo. Ti chiami tu Antonio, remo la vacca? Remo la vacca. Attento mi guarda, se lo ascolti all'operatore del tavolino della città di Sassari che ti super cordializza. Attento Antonio, se lo ascolti a bisogno della Sardima, fanno. Antonio, la città. Cosa lei dai? Scusi l'operatore del giardino del tavolino della città di Sassari, Sardegna. Attento Miguel. Miguel, se lo ascolti a l'operatore del tavolino della città di Sassari. Te la ricordi già quella che modulava su 16, tutti i giorni? Come si chiamava? Cazzo, non me lo ricordo, ma sembrava Falcone, cazzo, mattina e sera, tutti i giorni la sentivi. C'è parla Antonio lì da Monserrat, tutti i giorni anche lui. Ma era la cosa allucinante quella, cazzo. C'era un po' di roba dietro, pappagalli, di tutto va lì. Oh, proprio io non mi ho mai rimorchiato le donne sulla 27, no, assolutamente. E mica stavamo rimorchiando quella, no? Era tutti i giorni questa, sempre sul 16, dalla mattina alle 9 del mattino fino alle 11 di notte, cazzo. Adesso è parita, non oggi, ben tesa, era dalle Isole Canarie. Ah, non era di qua, pensavo che faceva plani qua. Oh, dalle Canarie, la sentivo tutti i giorni, sempre con 5-6 mi la sentivo. E ci parlavamo io e Antonio, anche Claudio ci ha parlato parecchie volte, che non sbagliera. Un giorno gli ho detto, cazzo, che la... aspetta, che ho detto che... una parola strana, cazzo, mi ha detto italiano, corrotto! Vabbè, io ho offeso, avevo detto qualcosa che l'ho offeso. Ma cosa ho offesa? Io avevo detto una parola, ci ho offesa lei, capito? Lì, canto me l'ha detto. Sono da ridare. Bei tempi quelli, bei tempi. Quando la lice mi metteva la portata che andavo sotto casa di Samantha. L'ho vista ieri Samantha, l'ho vista. L'ho vista per sbaglio ieri, la verità. Roberta però già lo sa che è divorziata, quindi io la vedo non tutti i giorni, ma una volta a settimana già la vedo. No, io uscivo con Samantha, Roberta l'ho vista per due volte forse. No, io la vedo ogni tanto, viene qua da Andrea, me l'ha capito la mattina, quindi figura, anzi veniva, perché adesso Andrea sta facendo il locale nuovo, quindi è fermo 3 mesi dalle... Lei non poteva uscire da là, già lo sa che abitatissi, quindi se vi dico tu sei se dovevo passare se ne incappettavano, quindi adesso vabbè con la maglia hanno tutto il coso, quindi posso venire tranquillamente a Sassari per lavoro. Sì, quello sì. Tu fece Luca, tu fece Riccardino, ripeto, allora mi sposto e ci sentiamo più tardi. Devi non mangiare troppo. Vado a mangiare, è ancora presto per mangiare. Presto, sta presto, sono i nubi. Io di solito mangio alle 10:30, alle 11. No, di una gana, devo far nudda, sono stanco stamattina. Ma la ciocca mangiare però. No, qua non è pronta, già ne ho, ho voglia, C'è un bel po' di lumaconi. Ne ho nella cassetta, non voglio messa nella retina perché non c'è spazio. Poi lumachine, un po', ne ha un chilo e mezzo marina giù, e stamattina ne ho fatto qualche mezzo chilo così, ma non ce n'era già. Cioè, poche ma belle, proprio belle veramente. Io ho fatto solo lumache, ma portando il cane l'altro giorno che ha fatto l'acqua e cose, un giorno sono uscito dopo, e ha detto più le lumache, non peccato a lasciarle, ho preso la busta dove avete bisogno di tagli, gli ho strappato una e mi ho riempito quella busta lì. E poi li ho trovati il giorno dopo, anche ho messo quelle del giorno dopo. E già un tantino per me me l'ho fatto, saranno 5-0, 6-0. Quelle che ho fatto io sono vecchie, ma che vecchie però, Sei migliori là praticamente. Quest'anno sono uscite. Sì, anche io. Pochi voti non li vedo qui. Non li vedo pochi voti, non mi piace. E poi se le fai con le patate ti faccio il bucio in bocca, cazzo. Mamma mia. Adesso queste qui me le faccio col sughetto piccanti, non c'è tanto mi piace. Dai, ma che vedi, sono quelle bianche, attenzione, non quelle che rimangono su più scure, capito? Quelle bianche. Già lo so, quelle più anziane. Sono le migliori, guarda, sono le migliori, sono le più piene. Adesso vediamo, ora mi faccio quelle là. Allora, quelle che ho fatte venerdì, le prime, venerdì me le faccio, una settimana, là. Aspetto, allora, oggi è, quanto è oggi? Oggi è 17. 17, come è 18, 19. No, io aspetto 2 settimane, non mi fido. Perché una volta con l'ambulato ho preso una famiglia, cazzo, intossicata dalle lumache, cazzo, peggio di un'imbriaghiera. Cazzo, quanto stavano male, a mal di pancia, a gomiti. da crepare, ho portato tutta la famiglia all'ospedale. Una settimana bastano già, ma poi te ne accorgi, uno non lo sporcano più, sono sfrugate. Io l'ho preso anche dal fieno, ti dico la verità, però non mi fido, non mi fido, ho visto quella famiglia, guarda, è stata veramente male. Ma io li ho sempre mangiati, perché non mi hanno mai fatto niente, ovvio, ho aspettato, che sfogassero. Io ce li ho già da sabato scorso, oggi è mercoledì, che si potrebbero fare già. Ma sai perché? Sono ti si svuotano, eh. Ma mamma li metteva il pane grattugiato, cazzo, invece che farli sfogare così, li metteva il pane grattugiato e diventavano bianche e bianche. Ma tu sei aspetti tutto questo tempo, si svuotano. E dimagriscono, beh certo. Però non li voglio mai ammacco ranziga. Ma ranziga non è ranziga, è che ti imbriagheggia, capito? Ma non è male. Non dovevi uscire già. Cosa? Non dovevi uscire. Ah, ha fatto una battuta così, ma non è che... Se non si è fatta sentire io mi sono cucucato. No. Ma poi non è ancora, le giornate sono un po' così, da un po' fresche. C'è freschetto fuori, io mi sono messo in un pigiama. Sì. Ma catalogo ce l'ha, signor sì. C'ho il catalogo della Mida, il catalogo del Superstar 2009, il catalogo dei Typhoon, il catalogo del Samsung. E quello delle pantane ce li ha. Sì, a Maria gli ho cambiato due pantane. E beh, Riccardino. Pagato col telefono. Già, mamma vuole fargli verso le 9:30 sempre. Verso le 9:30. Poi devo misurare la glicemia, vedere. Ci ha mangiato un po' di carne e patate. E una banana stanotte. Oh, non devo andare, là. Mi hanno chiamato. Andava, là. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao, Riccardino, Luca e altri amici. Ciao. Ci sentiamo alle prossime.